Capitolo 17. Era ormai la sesta settimana che gli Allen passavano a Bath e per un po' si discusse se dovesse o meno essere l'ultima, mentre Catherine ascoltava con il cuore in gola. Veder finire così presto la sua amicizia con i Tilney sarebbe stato un dolore che niente avrebbe potuto sanare. Finché la situazione rimase incerta, le sembrò che anche la sua felicità rimanesse in sospeso. E tutto ritornò a posto quando seppe che avrebbero riconfermato il loro alloggio per altri 15 giorni. Cosa potessero portarle? Questi 15 giorni, oltre al piacere di vedere qualche volta Henry Tilney, costituiva solo una piccola parte delle speculazioni di Catherine. In effetti, un paio di volte, dato che il fidanzamento di James le aveva insegnato che qualcosa in effetti poteva succedere, era andata tanto lontano con il pensiero da permettersi di formulare segretamente un forse, ma in generale la felicità di essere con lui delimitava le sue aspettative. Il presente era racchiuso in altre 3 settimane e dato che era sicura che per quel periodo sarebbe stata felice, il resto della sua vita le pareva così lontano da non suscitare in lei che uno scarso interesse. La mattina stessa in cui fu presa quella felice decisione, Catherine andò a far visita alla signorina Tilney per comunicarle la propria gioia. Aveva appena finito di esprimere la sua gioia per il prolungamento del loro soggiorno deciso dal signor Allen, quando la signorina Tilney le disse che suo padre aveva appena stabilito di lasciare Bath alla fine della settimana seguente. Che colpo per Catherine! L'incertezza della mattina non era stata che calma e quiete in confronto a questa delusione. Ogni espressione di gioia scomparve immediatamente dal volto di Catherine e con tono sinceramente addolorato fece eco alle ultime parole della signorina Tilney. Alla fine della prossima settimana? Sì, è difficile convincere mio padre a concedere alle cure termali quello che io credo sia il loro giusto corso. È rimasto deluso perché certi amici che pensava di incontrare qui non sono arrivati e dato che ora sta bene, ha fretta di tornare a casa. Oh, mi dispiace moltissimo, disse Catherine avvilita. Se l'avessi saputo prima, forse, disse la signorina Tilney, evidentemente imbarazzata, sareste tanto buona da... Io sarei molto felice se... L'entrata del padre impedì alla signorina Tilney di esprimere il pensiero gentile che Catherine sperava potesse essere la richiesta di scambiarsi delle lettere. Dopo essersi rivolto a lei con la sua solita cortesia, si rivolse verso la figlia e disse: Bene, Eleanor, posso congratularmi con te per aver riportato pieno successo nella richiesta che volevi rivolgere alla nostra bella amica? E stavo appunto incominciando il discorso, signore, quando siete entrato voi. Bene. Procedi senz'altro. So quanto ti stia a cuore. Mia figlia, signorina Morland, cominciò lui senza lasciare alla figlia il tempo di parlare, vorrebbe esprimervi un desiderio molto audace. Lasceremo Bath, come forse vi ha detto, quest'altra domenica. Una lettera del mio fattore mi informa che è necessaria la mia presenza a casa e dato che purtroppo non ho potuto incontrare qui, come speravo, il marchese Longtown e il generale Courtney, due miei vecchi amici, non c'è niente che mi trattenga più a lungo a Bath. E se potessimo vedere esaudita l'egoistica richiesta che vorremmo proporvi, potremmo lasciare questo luogo senza nessun rimpianto. In breve, potremmo convincervi ad abbandonare questa scena di pubblico trionfo e a far felice con la vostra compagnia la vostra amica Eleanor nel Gloucestershire? Mi vergogno quasi a farvi questa domanda, la cui presunzione certamente apparirebbe enorme a chiunque qui a Bath, tranne che a voi, con la vostra modestia. Ma appunto per questo non voglio mettervi in imbarazzo lodandovi apertamente. Se potrete convincervi a farci l'onore di questa visita, ci renderete felici al di là di quanto siamo capaci di esprimervi. È vero, non possiamo offrirvi niente di simile alle attrazioni di un posto vivace come questo, non possiamo tentarvi né promettendovi divertimenti né lusso, poiché il nostro tenore di vita, come vedete, è semplice e senza pretese. Faremo però tutto quanto in nostro potere per far sì che l'abbazia di Northanger non vi sia del tutto sgradita. L'abbazia di Northanger! Queste parole elettrizzanti portarono Catherine all'apice dell'estasi. Il suo animo era così grato e felice che a malapena riusciva a esprimersi in modo coerente. Ricevere un invito così lusinghiero, sentire che la sua compagnia veniva desiderata con tanto calore, questo era insieme un onore e una consolazione. Portava in sé ogni possibile gioia presente, ogni speranza futura. E lei diede immediatamente il suo assenso, ponendo come unica remora il consenso del padre e della madre. Scriverò subito a casa, disse, e se non avranno nulla in contrario, come penso sarà. Il generale Tilney non era meno ottimista, dato che aveva già interpellato gli eccellenti amici di Catherine di Pulteney Street, gli aveva ottenuto la loro approvazione e i suoi desideri. Dato che si acconsentono a separarsi da voi, disse, possiamo aspettarci che il mondo intero sappia rassegnarsi con serenità. Seguirono le cortesi espressioni della signorina Tilney, pressanti quanto la sua buona educazione le permetteva, e in pochi minuti l'intera faccenda fu decisa, anche se rimaneva da attendere il consenso da Fullerton. Le varie circostanze della mattinata avevano portato l'animo di Catherine nelle diverse fasi dell'incertezza, della sicurezza, della delusione, ma ora esso si era definitivamente attestato su una gioia celestiale. Così estasiata, con Harry nel cuore e l'abbazia di Northanger sulle labbra, corse a casa a scrivere la sua lettera. I signori Morland, rimettendosi alla discrezione degli amici, cui avevano già affidato la figlia, non ebbero nessun dubbio circa l'opportunità di quell'amicizia formatasi sotto gli occhi degli Allen e quindi inviarono a stretto giro di posta il loro consenso alla sua visita nel Gloucestershire. Questa indulgenza, anche se non era più di quanto Catherine aveva sperato, confermò la sua convinzione di essere, più di ogni altra creatura al mondo, favorita dagli amici e dalla sorte, dalle circostanze e dal caso. Tutto pareva concorrere a suo vantaggio. Per la gentilezza dei suoi primi amici, gli Allen era stata introdotta in un ambiente dove si era imbattuta in ogni specie di cose piacevoli. I suoi sentimenti, le sue preferenze, erano stati tutti felicemente ricambiati. Quando aveva desiderato di interessare qualcuno, c'era sempre riuscita. L'affetto di Isabella era ormai sicuro per lei, dato che sarebbero diventate sorelle. I Tilney, proprio loro, su cui più che su ogni altro aveva desiderato fare buona impressione, avevano perfino superato le sue aspettative per il modo lusinghiero con cui permettevano alla loro amicizia di continuare. Avevano scelto come ospite proprio lei e lei sarebbe rimasta per settimane sotto lo stesso tetto con la persona di cui più apprezzava la vicinanza e in aggiunta a tutto il resto quel tetto sarebbe stato il tetto di un'abbazia. La passione di Catherine per gli edifici antichi veniva subito dopo la sua passione per Harry Tilney e castelli e abbazie costituivano in genere l'incanto dei sogni a occhi aperti che non erano già completamente assorbiti dall'immagine di lui. Vedere ed esplorare i bastioni, i torrioni degli uni o i chiostri delle altre era stato per molte settimane uno dei sogni prediletti di Catherine, ma osare sperare di poter essere più di una semplice visitatrice di un'ora le era parsa un'aspirazione troppo assurda. Eppure questo sarebbe successo. Nonostante tutte le probabilità contrarie, Northanger, che poteva essere una casa, un palazzo, una casa di campagna, un parco, un maniero, una villetta, si era rivelata un'abbazia e lei vi avrebbe abitato. Ogni giorno avrebbe avuto a disposizione i lunghi paesaggi umidi, le celle strette e la cappella in rovina e non poteva del tutto rinunciare alla speranza di scoprire qualche antica leggenda o i resti orripilanti di qualche povera suora sventurata. Era straordinario che i suoi amici sembrassero così poco fieri di possedere una casa come quella, che una tale fortuna nascesse tra tanta modestia. Solo la forza dell'abitudine poteva spiegare quell'atteggiamento. Un onore che si possiede fin dalla nascita non dà motivo di inorgoglirsi. La superiorità della loro dimora non era per loro più della loro stessa superiorità come persone. Molte erano le domande che era ansiosa di fare alla signorina Tilney, ma il suo animo era così agitato che quando ebbe risposta a quelle domande si sentì quasi meno sicura di prima che Northanger davvero avesse potuto essere un ricco convento dei tempi della riforma che una volta sconsacrato fosse finito nelle mani di un antenato dei Tilney, che un'ampia porzione dell'edificio antico facesse ancora parte della dimora attuale, benché il resto fosse in rovina, o che si trovasse in una valle riparata a nord e a est da boschi di querce secolari. Capitolo 18. Catherine era così felice che si rese conto a malapena che negli ultimi 2 o 3 giorni non aveva mai visto Isabella per più di pochi minuti. Se ne accorse per la prima volta e sospirò, desiderando la conversazione dell'amica, una mattina in cui passeggiava nella Pump Room insieme con la signora Allen, senza niente da dire o da ascoltare. Erano sì e no 5 minuti che desiderava l'amica, quando l'oggetto di questo desiderio apparve e, dovendole dire qualcosa di molto privato, la guidò verso un sedile. «Questo è il mio posto preferito», disse Isabella, mentre sedevano su una panca in mezzo alle porte, dalla quale si riusciva a vedere abbastanza bene chiunque entrasse dall'una o dall'altra. «È così appartato!» Catherine, osservando che lo sguardo di Isabella andava continuamente verso l'una o l'altra delle porte, come se aspettasse ansiosamente qualcuno, ricordò quante volte era stata falsamente attribuita la dote della perspicacia e pensò quindi che questa fosse una buona occasione per dimostrare di averla davvero. Disse allora allegramente: «Non essere a disagio, Isabella. James sarà qui presto.» «Shh, tesoro mio!» replicò l'altra. «Non credere che sia così sciocca da costringerla a starmi attaccato alle gonnelle. Sarebbe odioso stare sempre insieme, diventeremo la favola della città.» «E così te ne vai a Northanger?» «Ne sono terribilmente contenta. So che è uno dei più belli tra i vecchi edifici d'Inghilterra. Me ne farai una descrizione particolareggiata, ci conto.» «Oh, la migliore che riuscirò a fare sarà certamente per te. Ma chi aspetti? Vengono le tue sorelle?» «No, non aspetto nessuno, bisogna pur guardare da qualche parte, e tu sai quale sciocca abitudine io abbia di fissare lo sguardo in un punto mentre i miei pensieri vagano miglia e miglia lontano. Sono terribilmente distratta, credo di essere la persona più distratta del mondo. Tilly dice che capita sempre così alle persone di un certo tipo.» «Ma Isabella, pensavo che avessi qualcosa di particolare da dirmi.» «Oh, sì, è proprio così. Ma ecco una prova di quello che ti dicevo. Che testa, me ne ero proprio dimenticata. Bene, il fatto è che ho appena ricevuto una lettera da John. Puoi immaginarne il contenuto.» «Proprio no?» «Tesoro mio, non fingere così. Di che cosa può scrivere se non di te? Sai che è innamorato fino alla punta delle orecchie.» «Proprio di me, cara Isabella?» «Ascolta, mia dolce Catherine, questo tuo comportamento sta diventando assurdo. La modestia va bene, ma qualche volta ci vuole anche un po' di onestà. Non puoi esagerare troppo. Basta con i complimenti, le tue attenzioni erano tali che le avrebbe notate un bambino. E solo mezz'ora prima che lasciasse Bath, tu l'hai incoraggiato, chiaramente. Questo mi dice nella sua lettera. E dice che ti ha fatto una proposta e tu hai accettato le sue avance nel modo più gentile e ora vuole che io perori con te la sua causa. E dice ogni specie di cose carine su di te, quindi è inutile fingerti all'oscuro di tutto.» Catherine, con tutta la convinzione di chi è sincero, espresse la sua sorpresa davanti a una simile accusa. Protestò la sua innocenza e affermò di non avere mai pensato che il signor Thorpe fosse innamorato di lei e che quindi era impossibile che avesse mai voluto incoraggiarlo. «Per quanto riguarda le attenzioni che avrebbe avuto per me, ti giuro sul mio onore di non essermene mai accorta neppure per un attimo, se si esclude il fatto che mi invitò a ballare il giorno del suo arrivo. E per quanto riguarda la proposta che mi avrebbe fatto, o qualsiasi cosa di questo tipo, beh, deve trattarsi di un inesplicabile errore. Non è possibile che io abbia frainteso una cosa del genere. E dato che desidero sempre essere creduta, affermo solennemente che non abbiamo mai scambiato una sola parola su questo argomento. L'ultima mezz'ora prima che partisse. Ma deve essere un errore, perché non l'ho affatto visto quella mattina.» «Oh, quanto a questo, l'hai visto di sicuro perché hai passato tutta la mattina agli Edgar's Buildings. Era il giorno in cui arrivò il consenso di tuo padre e io sono certa che tu e John siete rimasti soli nel salottino prima che tu te ne andassi.» «Davvero? Bene, se lo dici tu, deve essere vero, ma ti giuro che proprio non me ne ricordo.» «Ah, sì, ora mi ricordo di essere stata con te, ma che ci siamo trovati soli, sia pure per 5 minuti.» «Ma in ogni modo non vale la pena di discutere, poiché comunque la pensi lui. Il fatto stesso che io non ricordi niente deve averti convinto che non ho mai pensato Non mi sono mai aspettata e non ho mai desiderato nulla del genere da parte sua. Mi dispiace molto che egli nutra per me questo interesse, ma ti assicuro che da parte mia non c'è stata mai nessuna intenzione. Non avevo la minima idea di come stessero le cose. Oh, per piacere, chiarisci questo equivoco il più presto possibile e digli che gli chiedo scusa, cioè, non so che cosa dovrei dire, ma fagli capire quello che intendo nel modo più appropriato. Sai, Isabella, che non parlerei mai in modo scortese di un tuo fratello, ma sai anche benissimo che se mai pensassi a un uomo più che a un altro, quell'uomo non sarebbe lui. Isabella taceva. Mia cara amica, non essere in collera. Non potevo immaginare che a tuo fratello importasse tanto di me. E poi, lo sai, saremo sorelle ugualmente. Sì, e arrossì. Ci sono molti modi per diventare sorelle. Ma cosa vado a fantasticare? Ebbene, mia cara Catherine, mi sembra che tu sia ben decisa a rifiutare il povero John, non è vero? Oh, certamente non posso, non posso ricambiare il suo affetto e certamente non ho mai inteso incoraggiarlo. Oh, se le cose stanno così, non ti assillerò più a lungo. John desiderava che ti parlassi di questo argomento e quindi io l'ho fatto. Ma ti confesso che non appena ho letto la sua lettera ho pensato che era un'idea sciocca e sconsiderata e che probabilmente non sarebbe stato un bene per nessuno dei due. E di che cosa avreste vissuto se vi foste sposati? Tutti e due avete qualcosa, certo, ma non basta un non nulla per provvedere a una famiglia al giorno d'oggi. E nonostante quel che si dice nei romanzi, non si può stare senza denaro. Mi meraviglio soltanto che John abbia potuto pensarci, forse non aveva ricevuto la mia ultima lettera. Oh, mi assolvi allora da qualsiasi colpa. Sei convinta che non ho mai voluto incoraggiare tuo fratello e non ho mai sospettato di piacergli fino a questo momento? Oh, quanto a questo, rispose Isabella ridendo. Non pretendo di indovinare quali siano stati i tuoi pensieri e i tuoi piani nel passato. Questi puoi saperli soltanto tu. Capita di civettare un poco, senza cattive intenzioni. Spesso ci si ritrova ad aver incoraggiato l'altro più di quanto si desiderasse, ma puoi essere certa che io sono l'ultima persona che ti giudicherebbe severamente. Quando si è giovani e pieni di vita, tutte queste cose dovrebbero essere permesse. Quello che si vuole un giorno, sai, si può non volerlo il giorno dopo. Cambiano le circostanze, mutano le opinioni. Ma la mia opinione su tuo fratello non è mai mutata. È sempre stata la stessa. Stai parlando di una cosa che non c'è mai stata. Mia carissima Catherine, continuò l'altra senza ascoltarla affatto, non vorrei per tutto l'oro del mondo che per colpa mia tu accettassi affrettatamente un fidanzamento prima di sapere bene quello che stai facendo. Credo che non avrei nessuna giustificazione se desiderassi di vederti sacrificare tutta la tua felicità solo per far piacere a mio fratello. Oh, appunto perché è mio fratello, tanto più che dopo tutto, sai, è probabile che sia altrettanto felice senza di te. Raramente la gente sa cosa va incontro, specialmente i giovanotti sono così volubili e incostanti. Ciò che intendo è perché mai la felicità di un fratello dovrebbe starmi più a cuore di quella di un'amica? Tu sai quali sono le mie idee sull'amicizia. Ma soprattutto, mia cara Catherine, non avere fretta, credimi sulla parola. Se hai troppa fretta, te ne pentirai sicuramente in seguito. Tilney dice che non c'è niente su cui la gente si inganni tanto spesso come sullo stato dei propri sentimenti. E io credo che abbia perfettamente ragione. Ah, eccolo che viene. Non importa, non ci vedrà, ne sono sicura. Catherine, alzando lo sguardo, vide che era entrato il capitano Tilney e Isabella, guardandolo fisso mentre parlava, presto ne attirò l'attenzione. Egli immediatamente si avvicinò e si sedette dove lei gli indicava. Le sue prime parole sorpresero moltissimo Catherine. Benché l'altro parlasse piano, lei poté afferrare. Ma come? Dovette essere sempre controllata, di persona o per procura? Shh, che sciocchezze! Fu la risposta di Isabella, sempre a mezza voce. Perché mi mettete in mente queste cose? Se poi ci credessi, ho uno spirito piuttosto indipendente, sapete? Vorrei che il vostro cuore fosse indipendente, mi basterebbe. Oh, ma davvero, il cuore. E cosa avete a che fare voi con i cuori? Voi uomini non ne avete di cuore. Boh. Se non abbiamo cuore, abbiamo occhi, che ci tormentano già abbastanza. Davvero, Oh, mi dispiace che i vostri occhi trovino in me qualcosa di così sgradevole. Guarderò da un'altra parte, spero che così siate contento. E gli girò le spalle. Spero che ora i vostri occhi non vi procurino nessun tormento. Mai come ora, perché ancora posso scorgere il profilo di una bella guancia, insieme troppo e troppo poco. Catherine sentì tutto questo e ne fu così sconvolta che non poté ascoltare di più. Stupefatta che Isabella potesse sopportare quel comportamento e gelosa per il fratello, si alzò e, dicendo che doveva raggiungere la signora Allen, propose di passeggiare. Ma Isabella non ne aveva nessuna voglia. Era così terribilmente stanca ed era così odioso mettersi in mostra passeggiando per la Pump Room. E se lasciava il suo posto, certamente non avrebbe visto le sorelle. Aspettava le sorelle da un momento all'altro. Quindi la sua carissima Catherine doveva scusarla. Perché non si sedeva di nuovo da brava? Ma anche Catherine sapeva essere testarda. E poiché la signora Allen le si avvicinò proprio allora per proporle di tornare a casa, lei accettò e lasciò la Pump Room, mentre Isabella rimaneva ancora seduta con il capitano Tilney. Ma se ne andò molto a malincuore. Le sembrava che il capitano Tilney si stesse innamorando di Isabella e che Isabella, involontariamente, lo incoraggiasse. Il suo comportamento non poteva che essere involontario, perché l'affetto di Isabella per James era sicuro e ben conosciuto quanto lo era il loro fidanzamento. Dubitare della sua sincerità o delle sue buone intenzioni era impossibile. Eppure, durante tutta la loro conversazione, i suoi modi erano stati strani. Avrebbe voluto che Isabella avesse parlato come sempre e non avesse parlato tanto di denaro, e avrebbe voluto che l'amica non le fosse sembrata così contenta quando aveva visto il capitano Tilney. Che strano che non si rendesse conto che lui le faceva la corte. Catherine non vedeva l'ora di avvertirla, di metterla in guardia per prevenire tutte le pene che altrimenti il suo comportamento troppo vivace avrebbe potuto procurare sia al capitano che a suo fratello. L'affetto di John Thorpe per lei era in qualche modo lusinghiero, ma non rimediava certo alla leggerezza della sorella. Lei comunque era tanto lontana dal credervi quanto lo era dal desiderare che fosse sincero. Non aveva dimenticato che era facile che egli fraintendesse gli altri, e la sua affermazione, secondo cui le avrebbe fatto una proposta e lei lo avrebbe incoraggiato, la convinse che i suoi errori potevano essere madornali. La sua vanità fu dunque ben poco gratificata da questo equivoco, mentre aumentò la sua meraviglia. Che egli pensasse che valeva la pena di immaginare di essere innamorato di lei era qualcosa che la stupiva profondamente. Isabella aveva parlato delle sue attenzioni, ma lei non se n'era mai accorta. Ma Isabella aveva anche detto molte altre cose che lei sperava fossero state dette avventatamente e che non sarebbero state ripetute mai più. Per il momento, Catherine preferì fermarsi qui nei suoi ragionamenti, per poter ritrovare un po' di serenità.